mostrare ciò che credi, la divisata impresa. Ecco il nemico accetto, che pur figlio d'arma e forza. Madre, sapresso mai bene e bene, se non dimore te ora, e giurvi questo timor mio spirare. Ti intendo figlio, ma conforto non ho. Sposa Rosale a me lindo già data, e dar se sono nel fuoco marital le tue speranze. Ma tu, perché di fabbricarti i mali non lasci, e quale tetto dei non sprezzi? Pur certo, d'ogni attentato mio, troppo è di forza e di materno amor. Ma dove tu, si generoso cor, dovrà virito per effimero ben d'un disperato affetto, soggiacere al crudo impero? Non amo il van a lei il pensiero drizzo, sai che spesso le rifletti no quella legge che li vedi primo o dimmi il genitore pieno regere fremestrino e che riaccorso amato figlio mi disse temprare tuoi Rosani sarà la gioia tua se la tua pena. Figlio, negli estremi gravi mali, medica man pietosa, mai non niega di speranza il piacer, ma intanto amore chi spera? Il padre tuo, neppure padre, che me lo può che consolare tua doglia, d'una lusinga col sollievo. Che sul ali di questa alzato il volo maggior non sia di tua caduta il duolo.